Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Alzo gli occhi, prendo il binocolo e guardo. È bianco, luminoso, splendido. Gli corriamo incontro il più possibile. Si muove tranquillo mentre gli altri maschi controllano i nostri movimenti. Lo proteggono. Lui guarda verso il sole. Sembra parlargli. Ciao, sono Elise Crovato, ho 35 anni e vivo a Milano. Faccio il fotografo. Ci vuole veramente poco per svoltare questi primi giorni di primavera. Basta prendere un treno la mattina presto e partire da Milano, che è praticamente il 5 di novembre, e arrivare a Roma alle 10:30 del mattino ed essere una bella giornata di metà aprile. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24 in diretta. Voi siete qui oggi dagli studi della sede romana di Radio 24 e del Sole 24 Ore, che è un po' la stessa roba. Io e Bonini siamo arrivati appunto questa mattina, poi abbiamo addirittura fatto un pranzo all'aperto in una villa romana, che detto così sembra che siamo stati in vacanza. Quello un po', ecco, un po' sempre per uno che arriva da Milano, Roma ce l'ha un po' quest'aria, che sembra sempre di stare in vacanza. Benissimo, l'ho detta, sono le 16:08, adesso giuro che da qui in avanti banalità basta, anche perché oggi si parla di una cosa che è esattamente l'opposto della banalità, ed è in questo caso la storia di Alvise. Parla di uno degli animali, forse dell'animale più raro, essendo unico a quanto pare, da quello che dicono gli scienziati, i giornali, l'animale più raro che esiste in Italia, che è uno stambecco bianco. A questo proposito, la storia di Alvise racconta come l'incontro con uno stambecco bianco, che si chiama Fiocco di Neve. Fate una cosa, andate a cercarlo su internet se ci siete davanti, oppure andate sul nostro profilo Facebook, Voi siete qui Radio 24. Dovremmo, perché non lo faccio io, dovrebbe farlo. Oh, lo mette Margherita Hina dopo il secondo brano, mi dice Tiziano Bonini. Quindi, però, Margherita, visto che ci stai sentendo e sarai lì adesso, non aspettiamo fino al secondo brano. Mettiamo subito quest'articolo del 2007, ce ne sono diversi. Questo è un articolo di Repubblica.it che racconta di questo stambecco. Eccolo qua, e c'è anche una foto di questo animaletto bianco. Per uno che non ne sa nulla come me, uno stambecco potrebbe essere di tutti i colori. Per uno invece come Alvise e molti altri, in realtà probabilmente all'ascolto, lo stambecco bianco è un animale che è più che raro, è totalmente unico. 349 238 6666, l'oggetto, l'essere, l'animale, facciamo così, più raro e più straordinario che avete visto nella vostra vita. Alvise senza dubbio ha visto uno stambecco bianco. A ben guardarla, la mia storia ha lo sviluppo classico delle storie che si raccontano. Climax, anticlimax, lieto fine. Parte da un'infanzia pressoché felice in un paradiso terrestre come il Parco del Gran Paradiso, a Cogne. Da Milano si saliva tutti i weekend, tutte le vacanze in quella frazione sopra tutto e sopra tutti. E io ero un piccolo montanaro che osservava il mondo, correva, camminava, sciava e faceva nascere i vitellini. Chiamare Eden il Gran Paradiso è giusto, e non solo per il nome che porta. Ricordo come ora le volte in cui ho per la prima volta consapevolmente annusato gli odori delle erbe delle praterie a 2500 metri, ascoltato i fischi delle marmotte, avvistato l'aquila, bevuto il latte caldo e visto i veri regnanti di quelle montagne, gli stambecchi. L'adolescenza ha poi percorso lo stesso cammino. Ho scalato le montagne e diventato volontario a tempo pieno della LIPU. Ho imparato a conoscere i boschi e tutti gli ambienti con rinnovata consapevolezza. Nel frattempo al liceo conseguivo splendidi risultati, appassionandomi alla letteratura e alla filosofia, abbandonando in seguito pian piano la natura per il meraviglioso mondo delle idee. Quando ero bambino ero felice e devo dire molto spensierato, soprattutto quando ero in montagna. E poi, finito il liceo, il patatrac. L'hashish, la cocaina, l'oppio e poi l'LSD. Non mi interessa descrivere qui ciò che ho fatto in quei tempi, non è per questo che ho scritto. Voglio solo che sia chiaro che dal paradiso io sono caduto all'inferno diritto diritto e ci sono rimasto per un bel po' di tempo. Data via la casa a Cogne, di cui avevo per certi versi stuprato l'essenza in quel periodo, mi sono trasferito in Toscana. Sarò sempre grato ad alcune persone in quel di Val d'Orcia che mi hanno aiutato nel recupero. Sono tornato a Milano, mi sono iscritto all'università e ora sto scrivendo la tesi. Nel frattempo sono diventato fotografo. Sarò un geofotografo a tutti gli effetti. Ma nel frattempo cos'è successo? Nel frattempo è nato lui,

Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Voi siete qui. Sono due le foto da raccontarvi oggi, anche se in realtà sul sito ne trovate solo una. Partiamo da quella che non c'è sul sito, ed è il ritratto di Alvise, che è quello che di solito facciamo durante la diretta. Cioè vi chiediamo di mandare una foto e poi io cerco di raccontarvela, oltre che di dirvi che la potete vedere sul sito. Alvise ha una bella faccia goduta, è un incrocio tra Bud Spencer giovane e un pugile, perché c'hai Alvise, c'hai il naso che sembra, sai quando ti dicono vuoi fare il pugile, ok, e ti spaccano il naso, non sembra rotto ma sembra un po' schiacciato, però è sorridente in un paesaggio meraviglioso che immagino chiaramente essere la Val d'Aosta, e ad avere Cogne alle sue spalle, pascoli, prati, che poi è la stessa roba, boschi e neve in lontananza, probabilmente un ghiacciaio, su un cappello in testa e una maglietta lilla. Ma la foto che invece trovate sul sito e che vi consiglio vivamente di andare a vedere, sito di Radio 24, la pagina di Voi Siete Qui, è la foto di lui, fiocco di neve, lo stambecco bianco. C'è uno spuntone di roccia in montagna, il cielo alle spalle è azzurrissimo, ci sono tre stambecchi adulti che effettivamente guardano, come dice lui nel racconto, guardano la direzione dell'obiettivo come a dire ehi, occhio, sono immobili ma incutono timore. E un po' più in basso, tra uno spicchio d'erba che rimane e tutto il resto di roccia, c'è lo stambecco bianco. Non saprei cosa dirvi altro, andatevelo a guardare. Raro. Aggettivo. Scarsamente frequente o difficilmente reperibile. Non comune, rado, poco compatto o poco denso. Arcaico come avverbio, anche di raro, raramente. Etimo dal latino rarus, data prima metà secolo XIII. Data prima metà secolo XIII. Data prima metà secolo XIII. Data. Abbiamo capito, metà. Grazie ad Alessandra De Luca, grazie Alessandro. Ringraziamo tutti gli Alessandro che ci sono a Radio 24 praticamente. Elia scrive: anni fa, scendendo verso Cogne dal monte Grivola, dopo una gita di sci alpinistica con la neve di fine primavera, mi trovai in mezzo a un branco di stambecchi. Beh, il senso di tranquillità che davano, ma anche di grande superiorità che avevano rispetto alle nostre preoccupazioni quotidiane, è stato incredibilmente avvertibile. Un bravo ad Alvise. Qualcun altro mi scrive invece, ahimè, che il gorilla albino dello zoo di Barcellona, anche lui, per la cronaca, fiocco di neve, è mancato. È morto nel 2003. Quindi di fatto rimane un rappresentante bianco. 349-238-6666 mi scrivono sul profilo Facebook del programma, che è Voi Siete Qui Radio 24, dove Margherita Ina ha prontamente pubblicato l'articolo su Fiocco di Neve. In Val di Sole, in giro per il bosco insieme a mio figlio, trovammo il classico fungo velenoso rosso con i puntini bianchi sopra il cappello. Proprio perché è un classico, non è così raro, no? Che dici, Vincenzo? Francesca, sono indecisa tra il ghepardo e la manta, che si è avvicinata curiosa e piena di grazia per osservarmi e poi virare verso la superficie dell'acqua prima di allontanarsi. Voglio leggervi invece un pezzo che è il pezzo di letteratura, credo, mondiale, che parla di animali bianchi. Pensate a un animale bianco, pensate a un animale grosso e pensate a un'ossessione. Si chiama Moby Dick, quel romanzo che racconta di come un tizio che si chiama Acap, che è il capitano di una baleniera, decide a tutti i costi, fino a rischio della propria vita, di trovare questo animale, che è una balena ma soprattutto è una balena bianca. C'è in questa traduzione di Cesare Pavese, meravigliosa, quella che conoscete, ce l'avrete, dai, di Melville, Adelphi, Azzurrina, Moby Dick o La Balena. C'è un pezzo in cui Ismaele, il narratore della storia, spiega che cos'ha questa maledetta balena di così particolare da essere un'ossessione, da essere quasi spaventosa. E quello che ha, lui dice, è il fatto che è bianca. Fuori da quelle più ovvie considerazioni intorno a Moby Dick, c'era al suo proposito un altro pensiero, o piuttosto un orrore vago, senza nome, che a volte soverchiava completamente tutto il resto con la sua intensità. Eppure era tanto mistico e quasi indicibile che io quasi dispero di renderlo in forma comprensibile. Era la bianchezza della balena, che sopra ogni altra cosa mi atterriva. Ma come posso spiegare qui? Eppure in qualche modo oscuro e approssimativo devo spiegarmi, altrimenti tutti questi capitoli potrebbero riuscire in nulla. Dunque, sebbene in molti oggetti naturali la bianchezza accresca raffinatamente la bellezza, sebbene vari popoli abbiano in certo modo riconosciuto una qualche supremazia regale a questo colore, sebbene tra le sante cerimonie della fede cattolica il bianco sia particolarmente impiegato nelle celebrazioni della passione di Nostro Signore. Pure, malgrado tutte queste accumulate associazioni con tutto ciò che è dolce e venerabile e sublime, sempre cova nell'intima idea di questo colore qualcosa di elusivo che incute più panico all'anima di quel rosso che atterrisce nel sangue. È questa elusiva qualità che fa sì che il pensiero del bianco, quando esso sia separato da più benigne associazioni e accoppiato con un qualunque oggetto in se stesso terribile, accresca questo terrore fino all'estremo limite. Testimoni ne sono l'orso bianco polare e il pescecane bianco dei tropici. Che cosa, se non la loro levigata e fioccosa bianchezza, li rende quei supremi orrori che essi sono? È quella spettrale bianchezza che dà una così orrenda benignità, anche più ripugnante che non spaventosa, alla muta fissità dei loro aspetti. So I wait for you. I promise to come down, and I listen hard for a still small sound, and I search for you, 'cause you promise you'll be found. Ditemi quante altre radio vi fanno ascoltare Obadiah Parker alle 5 meno un quarto del pomeriggio, ma anche alle 11 del mattino. Nessuno, solo Tiziano Bonini, che è talmente filologico da, se avete capito qual è il testo della canzone, da mettere un pezzo così per quel brano di lettura lì e per questa storia di oggi. Anche nessun'altra radio ha un conduttore così imbecille da mandarsi in onda durante il brano come ho fatto prima. È che ci sono i tasti invertiti qui rispetto a Milano, cioè qui è rosso, sentite qui, e il verde invece è dall'altra parte. 349-238-6666. Ho capito, ci sono tantissimi che ci tengono a dirmi che in tutta colpa del paradiso di Francesco Nuti si parla di uno stambecco bianco. Vi ringrazio, me lo ricordavo, un film del 1985 in cui lui sale proprio da quelle parti, credo, Gran Paradiso, e c'è lei, come si chiama, bellissima, Ornella Muti, e c'è Ornella Muti, e è il pezzo in cui lui dice, c'è quel passaggio del film in cui dice te tu sei Lorenzo, te tu sei Lorenzo, che parla col bambino, dice una roba del genere. Comunque lo stambecco castano non l'avevo mai sentito, Antonio, tu figurati, non avevo mai sentito lo stambecco vecchio bianco. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile anche la puntata di oggi qui da Roma, grazie a Gloria Guerrera, grazie ad Alessandro Cappini, a Tiziano Bonini, grazie soprattutto ad Alvise, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Ciao, sono Elisa e vivo a Viareggio. La storia di domani è la mia e parla di un bidone da spedizione che mi sarebbe servito per salire una montagna durante un viaggio. Un viaggio che in parte si è rivelato anche un gran bidone. Questa è la mia storia e io sono qui.